Innanzitutto bentornati a tutti, siamo una nuova puntata, una nuova edizione, un nuovo incontro sul Vangelo secondo Giovanni, che ci accompagna da diverso tempo, diciamo che dall'anno, ora cominciamo i dispetti, ok, ci sta accompagnando da diverso tempo, dall'anno scorso, perché come tutti quanti sappiamo le vicende, che non è il caso insomma adesso di vederle in continuazione, no? E faremo innanzitutto adesso di nuovo un punto della situazione, perché essendo un pochino frammentare, anche perché vedo insomma persone che presenti qui, che è sempre la cosa più importante, che hanno perso qualche incontrino, quindi faremo innanzitutto una contestualizzazione e poi l'argomento di oggi. Cerco di essere veloce, diciamo, nella sintesi, però anche per chi sia in diretta che in differita, insomma, va a vedere per la prima volta queste cose. Allora, il Vangelo secondo San Giovanni, come abbiamo visto nell'introduzione, è distinto in due grandi parti. La prima è il libro dei segni, dove ci sono appunto sette segni significativi compiuti da Gesù, alternati con sette grandi discorsi. È la struttura propria del Vangelo di Giovanni, discorsi quasi tutti inediti, anche quelli che vedremo questa sera, che se di vuole vedremo un paio di discorsi del capitolo settimo, e non si trovano negli altri Vangeli, perché San Giovanni non ha scritto una fotocopia degli altri tre Vangeli, ma ha completato il ciclo dei Vangeli con tutta quanta una serie di informazioni che ordinariamente mancavano, per cui il quarto Vangelo generalmente segue una linea autonoma e ha pochissimi punti di contatto con i tre Vangeli sinottici. Allora, il libro dei segni, che comincia con il primo, già con il primo capitolo, insomma, no? Da quando Gesù manifesta la sua gloria nei segni, e i segni sono sette, alcuni li abbiamo già visti: le nozze di Cana, la guarigione del figlio del funzionario, la guarigione dell'infermo in una piscina di Bezzetà, la moltiplicazione dei pani, che abbiamo visto, se vi ricordate, la volta scorsa, perché la moltiplicazione dei pani è poi seguita, vi ricordate, dal discorso alla sinagoga di Cafarno, che è tutto un discorso sull'Eucaristia. Generalmente Gesù alterna un segno e un discorso che approfondisce ulteriormente il significato del segno. Abbiamo concluso con Gesù che camminava sulle acque e oggi vedremo poi il capitolo settimo, il capitolo delle discussioni. Vedremo che intorno a Gesù dice: ma questo chi è? E qualcuno dirà: ma questo non ha manco studiato. E si mette in giro a fare tutta questa commedia, no? Perché, capite, nel contesto del Vangelo Gesù ha già compiuto tanti segni, quindi diciamo, questo chi è che fa queste cose? Però insomma, a quello che appare, insomma, dice, vedremo poi le discussioni popolari sull'origine del Cristo, no? Dice: ma deve venire qua, deve venire, questo viene dalla Galilea, ma questo chi è? Ecco, vedremo, è l'argomento di oggi, no? Capitolo ottavo comincia con il grande episodio dell'adultera, che non va annoverato tra i segni, ma è comunque assolutamente significativo. Ci sono poi, ecco, il dettaglio delle parti precedenti l'ho omesso, no? Invece di quelle che ci restano ancora da affrontare l'ho specificato, perché prima del sesto segno del cieco nato c'è il grande discorso di Gesù sulla testimonianza che Gesù rende a se stesso e il discorso su Gesù e Abramo, altri due grandi, importantissimi discorsi. Poi c'è il cieco nato, il discorso sul buon pastore, che non è la pecorella smarrita, eh? Io sono il buon pastore conosce le sue pecore, le pecore conoscono il pastore, sono la porta del gregge, no? E il culmine, Gesù si dichiara figlio di Dio. Ultimo dei segni, quello più strepitoso, è quello che ha segnato paradossalmente la condanna a morte di Gesù, come vedremo, al capitolo 11, la risurrezione di Lazzaro. Condanna a morte di Gesù, unzione di Betania, il famoso gesto attribuito a Maria di Magdala che rompe il vasetto di grande valore e lo versa sul capo e sui piedi di Gesù, ingresso a Gerusalemme e poi il discorso sulla prossima glorificazione. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. E poi comincia il secondo grande libro, che è l'introduzione, che è il libro dell'ora, quindi c'è questa grande bipartizione, no? Il libro dei segni che dimostra la divinità di Gesù e poi il libro dell'ora, l'ora con la O maiuscola, sappiamo, il Vangelo di San Giovanni è l'ora della passione e della morte, l'ora della partenza di Gesù, ed è l'ora in cui paradossalmente, mentre apparentemente sembra l'ora della sconfitta, quindi l'ora del debacle, quindi dell'umiliazione, vedremo che secondo Giovanni quella è l'ora in cui si manifesta la gloria più grande di Gesù, la gloria di Dio, cioè quella gloria dinanzi a cui gli angeli tremano, si manifesta quando il Figlio di Dio viene messo sotto i piedi e calpestato da tutto e da tutti. Questo è il grande paradosso della nostra santa fede divina e cattolica. Quindi questo è un po', ce ne vuole ancora, quindi io dico sempre, non ci abbiamo fretta, l'importanza, le cose di Dio vanno fatte bene, non vanno fatte di fretta. Quando si fanno le cose, questo lo sto imparando col passare del tempo, anche quando vado a benedire le case adesso, calma. Se in giro ci metto anziché un anno, 3 anni a finirlo non fa niente, l'importante è perché sì, c'è la benedizione, però quelli sono anche momenti, voi capite, no? Le persone che stanno lontane, quando le trovo io? Cioè, se una persona riesco, diciamo così, a aprire una piccola chiavetta, a farci due chiacchiere, a conoscerla un po', quando lo faccio? Allora, la fretta è sempre cattiva consigliera, quindi cioè, se uno non riesce a fare tutto non fa niente, l'importante è che quel poco che fa lo fa fatto bene. Questo era inciso da parroco, e mo adesso riprendiamo il Vangelo, se no poi se i parroci partono non piantano più con i suoi loro discorsetti, insomma, tipici da parroci, no? Allora vediamo prima la struttura e quello che ci aspetta nel capitolo 7, poi cambiamo scrivania e andiamo alla Bibbia. Vedremo fondamentalmente il testo della CEI del 2008, perché nella mia Bibbia c'è stato di tutto e di più, insomma, i software che ci abbiamo adesso a disposizione. Allora, cominciano le prime persecuzioni a Gesù, proprio persecuzioni, come vedremo Gesù. Gesù comincia a salire verso Gerusalemme per una delle festività. Sapete che Gesù ha vissuto da piissimo ebreo, cioè Gesù era irreprensibile quanto alla vita da buon ebreo fino al momento della passione e della morte. Lui stesso, cioè, si è sottomesso alla legge che lui stesso aveva dato. Quindi, fa attenzione quando uno c'è. Certo, poi c'è stata la nuova alleanza, quindi l'ebraismo è superato, ma quando si pensa ai nostri cari fratelli ebrei, non dobbiamo pensare che la vita terrena di Gesù è stata la via del perfetto israelita. Non vi scandalizzate, la Madonna le ha vissute tutte e due, perché dopo l'ascensione la Madonna comincia a vivere da cristiana, quindi certo, ma da ebrea divenuta perfettamente cristiana, che capite il senso che sto dicendo, no? Però quindi lui lo faceva tutte le feste delle capanne, la festa del Vangelo di San Giovanni, tutte ci stanno, tutte quante le principali festività del calendario ebraico vengono da Gesù santificate, d'accordo? Tutte. Quindi non ha fatto come nel Medioevo, sapete che vi ricordate a scuola la dottrina del princeps solutus legibus, cioè la legge lo servono tutti meno che il principe. Gesù è stato il primo a dare il buon esempio per l'antico e per il nuovo, quindi non è molto d'accordo con questa cosa, no? Quindi vedremo che i giudei contestano a Gesù di non aver studiato, diciamo, questo chi è? Proprio testualmente l'ho virgolettato, perché vedremo proprio il termine di uso. Poi sono discussioni popolari sull'origine del Cristo, vedremo quindi le autorità, quindi i dotti perseguitano e contestano, ma anche il popolo comincia a dividersi un po' sui pro e sui contro. No, questo sarà un profeta, no, non può essere. Si dicono il Messia viene dalla Giudea, questo è andato a Nazareth, perché non lo sapevano che Gesù era nato a Betlemme, sapeva quasi nessuno, tutti quanti sapevano che lui veniva da Nazareth. È possibile, il Messia deve nascere, lo sa, che la conoscevano la Bibbia, non sono come noi, ci metto in mezzo pure io, che noi siamo tutti quanti gli ebrei, la Bibbia la conosce a memoria, non solo la Bibbia, pure tutte le tradizioni, tutte le cose che erano inventate i rabbini, il Targum, il Talmud, tutto conoscevano. Poi i farisei si agitano, cominciano, vedremo, a creare un pochino, dice, cominciano a temere che le fazioni positive nei confronti di Gesù possano in qualche modo minare le loro posizioni, diciamo così, di sovreminenza e di autorità religiosa sul popolo, no? E Gesù annuncia la sua prossima partenza, dice io vado, questo è il tema, vi ricordate? Lui dice, annuncia la partenza, lo vedete, dice, e mo questo dove va? Lui parlava della partenza con la P maiuscola, ma invece pensi, ma mo questo dove andrà? Che fa? Parte, va a Roma, va in mezzo ai Romani, se ne va dai Greci, dove va a finire, insomma, no? Quindi vi ricordate nell'introduzione, questo è il tema dell'ironia giovannea, San Giovanni c'ha questa caratteristica, no? Cioè che mostra che Gesù intende una cosa e sistematicamente capiscono rischio che fiasco. Cioè Gesù intende sempre qualche cosa di spiritualmente elevato e chi l'ascolta rimane sempre, come diciamo noi, terra terra, quindi capisce un Tuborg sistematicamente e regolarmente. Ricordate il discorso della Samaritana, no? Ci ho da mangiare un cibo che voi non conoscete, dice. Forse questa l'ha invitato a pranzo, forse qualcuno l'ha già portato da mangiare, gli erano andati a fare la spesa, lui nel frattempo aveva fatto tutto il discorso, dice, perché dice, ho da mangiare un cibo che non conoscete, perché oggi ho fatto la volontà del Padre, ho riportato un'anima peccatrice nell'ovile, dice, oggi mi sono saziato. Dice, questa forse l'ha invitato a pranzo, quindi loro terra terra, capito, proprio il pranzo, il cibo terra terra, no? Poi c'è quel bellissimo, brevissimo discorso apodittico e bello di Gesù, la promessa dell'acqua viva, boom, che appare come un fulmine a ciel sereno in questo capitolo settimo, e poi ulteriori discussioni tra la gente, opinioni discordanti sulla natura e l'origine di Gesù. Quindi capite come questo capitolo è proprio un capitolo di transizione che si situa più o meno nella parte centrale del libro dei segni, no? Che va dal secondo al dodicesimo, qui stiamo al settimo capitolo, quindi è un po' un capitolo di snodo che fa capire ciò che si muoveva intorno a Gesù mano a mano che si manifestava la natura della sua missione, no? Bene, ecco, detto questo, come accennato, cambiamo scrivania. No. Ecco, e andiamo di qua. Speriamo che ci vedete bene, eh? Cioè noi ingrandiamo. Andiamo da John al capitolo settimo. Non vi preoccupate, eh? Qui abbiamo, volendo, vedete come sono fatti i software, li vedete bene, professionali. C'è il testo greco, la Vulgata, la CEI e anche la CEI del 74, se c'è nell'Antico Testamento stanno anche la versione ebraica, così uno può raccapezzarsi, magari in qualche passaggio vedremo bene anche qualche confronto col greco se è necessario. Adesso passiamo alla CEI, vedete bene? Ok, andiamo come sempre con la lettura e poi mano a mano ci fermiamo quando è il caso. Dopo questi fatti Gesù se ne andava per la Galilea, infatti non voleva più percorrere la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto, vedete, la festa dei giudei, quella delle capanne, quindi stiamo nel mese della... chiaramente la festa delle capanne cade nel mese di settembre, quindi questo è il periodo cronologico, no? Però la festa delle capanne. I suoi fratelli gli dissero, parti di qui e vai nella Giudea perché anche i tuoi discepoli vedono le opere che tu compi, delle opere che tu compi. Cioè questo è un primo passaggio dove è necessario tornare. Vedete? Le opere che tu compi, ta erga poies, cioè le opere erga sono le opere visibili. Sta facendo riferimento proprio ai fatti significativi che Gesù compie. Tenete presente che siamo dopo il capitolo della moltiplicazione dei pani e dopo il segno di Gesù che cammina sulle acque. Sono cose che strepitose che si vedono, no? Ecco, quindi. Bene, riprendiamo il testo italiano. Nessuno, infatti, se vuole essere riconosciuto pubblicamente, agisce di nascosto. Cioè, se fai queste cose, manifesta te stesso al mondo. Attenzione, neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. Attenzione, qui penso che ci siamo un pochino detti già qualche volta il tema dei fratelli. Vedete che in greco c'è il termine adelfoi, questo ve lo dico per la vostra formazione particolare. Adesso nel Nuovo Testamento l'ebraico non esiste, tenete sempre presenti, ve lo dico queste cose perché le dico anche per chi poi vedrà in differita le catechesi, perché il tema dei fratelli di Gesù è un cavallo di battaglia testimoni di Geova, perdonatemi l'inciso, per affermare che Gesù aveva degli altri fratelli germani, reali, quindi fratelli di sangue, E quindi non è vero quello che insegna la Chiesa Cattolica, Gesù era figlio unico, né tantomeno che la Madonna era vergine. Ecco, allora. E vi portano la Bibbia in greco, perché qualcuno di loro, se si studia qua quattro stupidaggini, con me non ci è mai venuto a parlare in scuola, perché dico, vieni, parliamo con la Bibbia greca e ebraica insieme, d'accordo? Il termine adelfoi in greco in realtà significa fratello. Qual è il problema però? Come si esce da questa apparente aporia, oltre che da dei riscontri testuali, da dei riscontri storici che dobbiamo conoscere? Allora, dobbiamo sapere che ai tempi di Gesù, perché i Vangeli sono stati scritti in greco? I Vangeli sono stati scritti in greco, tranne la prima versione del Vangelo di Matteo, che quasi certamente è scritta in aramaico, e quasi certamente è quella fonte comune da cui i sinottici hanno poi tratto le parti comuni, perché pare che fosse più breve e scritto in aramaico, appunto perché l'aramaico era l'ebraico parlato. D'accordo? Per farvi capire un po' cos'era l'aramaico, voi sapete che c'è stato un periodo in cui c'era il latino e il volgare. Il volgare è molto simile al latino, ma il latino, diciamo, che era la lingua scritta e dei dotti, il volgare era il latino parlato. Ecco, ai tempi di Gesù l'ebraico era il linguaggio dotto e la lingua in cui erano scritti i testi biblici, l'aramaico era l'ebraico parlato, è molto simile. Allora, scrivere un Vangelo in aramaico voleva dire rivolgersi a tutto il popolo, in modo tale che lo capissero tutti, perché l'ebraico non era capito da tutti, era la lingua dei colti, ok? Poi, anche a quei tempi, c'era la lingua internazionale. Oggi qual è la lingua internazionale? È l'inglese. Ai tempi di Gesù, la lingua internazionale era l'ebraico, non era era il greco, non era il latino. Era però la lingua internazionale un pochino up, però era la lingua internazionale. Allora, che succede? Sti pori ebrei avevano una conoscenza evidentemente rudimentare. Se dovevi scrivere un Vangelo non potevi scrivere semplicemente in aramaico, nemmeno in ebraico, perché non capiva nessuno. Gesù ha detto andate e annunziate il Vangelo ad ogni creatura. Come faccio a parlare a ogni creatura? San Paolo si è fatto tutti quanti i suoi viaggi apostolici in giro, e in che lingua predicava secondo voi? In greco. Capite? Quindi, allora però attenzione, io che sto studiando adesso un sacco di altre lingue, il problema di quando noi studiamo le lingue è questo. Allora, io vi racconto la mia esperienza. Io ho studiato l'inglese per 20 anni a scuola, alle scuole medie, a scuola superiore, ho fatto l'Accademia Britannica, quindi più o meno la grammatica la conosco bene, ma non sono mai andato un mese e mezzo in Inghilterra a fare una full immersion. Allora, quando tu impari una lingua in questo modo, c'è sempre dei gap, perché tu fai sempre difficoltà sia a capire che a esprimerti. Perché? Perché tu pensi in italiano e fai la traduzione simultanea nell'altra lingua, che fa una fatica enorme. Allora, come ho imparato lo spagnolo io? Lo spagnolo io non ho mai studiato. 40 giorni in America Latina in missione, senza nessuno vicino a me che parlasse l'italiano, se non un seminarista che non vedevo mai. Però voi credete che io ho 40 giorni? Cioè, io adesso, se sento parlare in spagnolo, se mi devo esprimere, mi faccio capire perfettamente, e se sento un dialogo in italiano capisco il 95%, un dialogo in spagnolo. Ah, oh, in inglese l'ho studiato per una vita e sto in croce tutte le sere con i podcast, con le cose, a bombardarmi le orecchie, perché non ho mai fatto questa cosa qui. Quindi la mia testa non si è registrata sul file inglese, ma sta sul file italiano. Perché dice, che ce ne importa queste cose due? Importa, perché gli ebrei quando hanno scritto il Vangelo l'hanno scritto in greco, ma pensando in ebraico, quindi facendo una traduzione estemporanea. Ora, in ebraico adelfos, questo termine qui, per farvi capire, si legge adelfos, brother in inglese, d'accordo? Che è fratello germano. Si dice ach in ebraico, ma in ebraico ach non significa solo fratello di sangue, ma significa anche zio, cugino. Se aprite il libro della Genesi, Abramo e Lot si chiamano tra di loro ach. Nella 70 c'è scritto adelfos, ma che non è il fratello di sangue, ma è... I romani la chiamavano la famiglia agnatizia, è il clan, quindi che arriva al capostipite comune. Quindi tu puoi chiamare, vedete, come nel nostro linguaggio liturgico, fratelli, mo abbiamo il linguaggio inclusivo da mesi a sta parte, fratelli e sorelle, per carità, Voi sapete che qualcuno lo faceva anche prima e dice: io ma avete mai sentito dire fratelli e sorelle prima? Perché io lo riconoscevo che forse era anche giusto e opportuno, ma le norme liturgiche, ma le norme, allora qui non si possono, cioè le norme liturgiche bisogna osservarle. Cioè, quando la Chiesa ha stabilito che questa cosa deve fare, adesso la facciamo, prima no. Questa è anche una forma, come dire, di ascesi, come dire, importante, cioè, capite? Cioè, anche se a te una cosa c'è dinanzi un testo liturgico che poi è una traduzione, non ti sembra tanto per la quale, tatevi, se arriveranno quei momenti in cui chi è più grande ti dice adesso è ora di farlo, lo fai. Ok, ma voi non siete i miei fratelli e mie sorelle, scusate un attimino, no? Cioè, nel campo liturgico io sto chiamando fratelli e sorelle sottinteso in Cristo, perché il battesimo ci rende tutti quanti membri della famiglia spirituale che è la Chiesa, e quindi possiamo chiamare Dio Padre, ma non è che Dio è il nostro padre biologico, Dio è il nostro padre, capite, spirituale, siamo figli adottivi di Dio e quindi siamo tutti fratelli e sorelle in Cristo, capite? Si può anche chiamare fratello e sorella un membro della razza umana, non perché ha in comune con noi l'adozione a figli, ma perché è una creatura, veniamo tutti quanti da Dio Padre, e quindi in senso ampio si può chiamare fratello e sorella qualunque membro della razza umana. Capite queste cose qui, no? Ecco, quindi il fatto che ci sia scritto neppure i suoi fratelli credevano in lui non fa riferimento ai fratelli nei Vangeli sinottici, quelli che vengono chiamati fratelli di Gesù, si vede che vengono poi chiamati i figli di Maria di Cleofe. Maria di Cleofe, in base alle fonti, era la moglie di Alfeo, infatti si chiamano anche Giacomo d'Alfeo e Giuda d'Alfeo, oltre che Giuda Taddeo. D'Alfeo era il padre, Alfeo era il fratello di San Giuseppe. Quindi erano tra l'altro fratelli di Gesù in senso ampio, capite? Perché San Giuseppe era il padre putativo di Gesù. Oh, ricordatevi che dovremmo dire, adesso lo dire anche a Don Pierpaolo, tra parentesi, sapete che adesso Santo Padre ha fatto l'anno giuseppino, quindi grazie a Don Leonardo, facciamo proprio stasera, superbi allo stato puro, vi beccheremo in indulgenza plenaria al giorno, perché la preghiera a te, beato Giuseppe, che già c'ha l'indulgenza parziale che facciamo tutti i giorni, buona indulgenza plenaria, perché me ne potete spiegare una al giorno. La preghiera a Teo Beato Giuseppe per quest'anno salta di grado, mentre è sempre una preghiera per cui c'è l'indulgenza parziale, ma c'è l'indulgenza plenaria. Quindi metteteci l'intenzione, perché un al giorno non serve proprio l'adorazione eucaristica, non serve niente, basta la preghiera a San Giuseppe, hai detto? Perché Papa Francesco è devoto di San Giuseppe, lui ha voluto far introdurre San Giuseppe suo sposo, questa è un'altra... È così, bisogna dire le cose come stanno. Allora, era presente soltanto nella preghiera eucaristica una, che è il canone romano. Mo stasera stiamo uscendo fuori tema, perdonate, però facciamo un pochettino, facciamo un po' di formazione, non troppo, no? Allora, quante sono le preghiere eucaristiche del messaggio? Ma io le faccio tutte, eh? Io le faccio tutte, sono, sapete quante sono? Sono 10. Perché ci sono la 1, che è il canone romano, la più bella di tutti, secondo me. Il cuore mio batte nel canone romano, d'accordo? Però per esempio stasera il canone romano è una preghiera bellissima, una preghiera molto lunga. Stasera che c'è l'incontro biblico dopo la messa, se io faccio il canone romano non riesco neanche a stare 10 minuti in camera verbalica post messa, cioè quel minimo indispensabile, cioè io non ce la proprio faccio a uscire dalla messa, andando subito, cioè 10 minuti non mi proprio, cioè almeno 10 minuti, d'accordo? Allora c'è la preghiera eucaristica 2, che è la più breve, quella tanto chiacchierata che tutti quanti chiacchierano, dice e fondi, mo ve lo faccio vedere qui se volete, e fondi la rugiada del tuo spirito, ma la rugiada del tuo spirito è la traduzione letterale del testo latino, perché in latino, cioè voi sapete che il messale questo è la nuova traduzione dell'edizio tipica, perché la preghiera ufficiale della Chiesa è ancora in latino. Voi sapete che io celebro la messa a rito romano antico domani mattina, ma quando io celebro da sola, se volete qualche volta una cosa si può fare anche in pubblico, senza chiedere permesso a nessuno, si può celebrare la messa di Paolo VI col messale suo, che è il messale latino, d'accordo? Adesso non sto seguendo più la celebrazione pontificia con Papa Francesco, ma io ricordo quelle rare volte che ho assistito a celebrazioni a Roma sia con Giovanni Paolo II che con Benedetto, la messa di Paolo VI veniva detto in latino. È diversa la è uguale a questa qui che celebriamo, solo che si recita in latino, mentre invece la messa in rito antico è, ha una, è come dire, proprio caratterizzazione differente, che sono complementari, come ha spiegato Benedetto nel modo proprio in cui l'ha liberalizzata. Comunque adesso faccio questo scherzo qui. In latino, ti preghiamo, Spiritus, tu irore santifica, c'è scritto, tu irore, ros roris, io dovete fare un atto di fede, però andate a prendere un vocabolario latino, cercate ros roris oppure online e vedete che ros roris significa rugiada, quindi è la traduzione letterale, capito? Quindi non è, non c'è niente di che, nel nuovo messale, ve lo dico subito, lo studio tutto quanto, alcune cose sono traduzioni più aderenti alla lettera del latino, altre invece sono più aderenti al senso, per esempio alcune preghiere segrete del sacerdote, quella che si dice prima che dice il Vangelo e quella quando si lava le mani, sono proprio traduzioni letterali della latina, perché io conosco bene anche la messa nuova in latino, ne conosco tre, è in italiano, il rito antico e il rito nuovo in latino, quindi quello che mi piace di più, capito? Ce n'è per tutte quante le cose, d'accordo? Quindi questo per dire che, attenzione, quindi quando arriva un testimone di Geova, dice, tu non puoi prestare adesso un linguaggio, capite? Queste sono finezze esegetiche, questo è un incontro biblico questo qui, quindi negli incontri biblici si fanno qualche finezza esegetica. Ci siamo dilungati un po', però spero che, tanto se ve le dimenticate, domani questa sta online, in qualunque momento potete andare a fare il reverse e ricordare queste cose qui, no? Se vi interessano. Però, forse siamo usciti un pochino fuori tema, però, o forse no. Torniamo al testo italiano. Gesù allora disse, il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa perché il mio tempo non è ancora compiuto. Vedremo, eh? Dopo aver detto queste cose, restò nella Galilea. Ma quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui. Non apertamente però, ma quasi di nascosto. I giudei intanto lo cercavano durante la festa e dicevano, dov'è quel tale? Ecco, cominciava la discussione. E la folla sottovoce faceva un gran parlare di lui. Alcuni infatti dicevano, è buono. Altri invece dicevano, no, inganna la gente. A Gesù non ha detto, inganna la gente, l'inganna popoli. Nessuno però parlava di lui in pubblico per paura dei giudei. Quando ormai si era a metà della festa, questa festa delle capanne dura una settimana, ecco, come molte feste ebraiche, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. I giudei ne erano meravigliati e dicevano, ma come mai costui conosce le scritture senza avere studiato? Facciamo un'altra piccola pausa, perché qua già abbiamo un po' di carne al fuoco, no? Allora, perché Gesù non vuole andare alla festa? Perché si è già accesa, non è che non vuole andare, voleva andare, di fatto lo fece di nascosto, quindi senza creare fenomeni pubblici, perché ci aveva, vi ricordate la fine del capitolo sesto, dopo la moltiplicazione dei pani, volevano venire per farlo re, cioè che succede? Pensate per esempio alla vicenda di Padre Pio, che il Signore ci scampi da queste cose. Quando comincia a esserci qualche cosa di straordinario nella figura di un uomo di Dio, Gesù era il figlio di Dio, ma che succede? Inevitabilmente vespai, polveroni, attiramenti di attenzioni e quindi riflettori puntati da parte delle autorità che a quel tempo erano, che cominciano a starti con gli occhi puntati sopra. Pregate sempre, a me non succederà mai, ma voi supplicate in ginocchio che il Signore vi risparmi in tutti i modi possibili qualunque cosa, perché comincia poi una vita assolutamente ingestibile, che c'è veramente, molti se la augurano, ma a chi gli capita, pensate a quel poraccio di Padre Pio, cioè non campi più se succede una cosa di questo genere. Allora, per prudenza Gesù dice, evitiamo di andare a fare sceneggiate e attiramenti di attenzioni. Però poi purtroppo, quando sono successe certe cose, non se ne riesce più a controllare, non se ne riesce più a fare nulla. E attenzione, qui Gesù mette subito un parallelismo tra il mio tempo non è ancora venuto, interessante. Il vostro invece è sempre pronto. Quindi Gesù sta dicendo, sta ammonendo, perché altro tema del Vangelo di San Giovanni, e lo abbiamo già visto al termine del capitolo sesto, hanno fatto tutta quanto una campagna denigratoria contro Gesù mentre ancora era vivo, e Gesù ha perso moltissimi discepoli mentre ancora era vivo. Quindi il mio tempo non è ancora venuto, il vostro è sempre pronto, state sotto tiro. Cosa c'è dietro tutto questo? L'odio verso di me, l'odio del mondo. Attenzione qui, andiamo un attimo al versetto settimo, rimettiamo le traduzioni multiple. Cosmos, se vi ricordate al suo tempo, cosmos è nel Vangelo di Giovanni un termine dal significato molteplice, perché cosmos di per sé è una cosa bella. Il cosmos, sapete, no? Il cosmo di per sé è il mondo ordinato, come uscito fuori dalle mani di Dio, che è una cosa meravigliosa. Ma nel Vangelo di San Giovanni il cosmos è il mondo deturpato dall'azione del diavolo e dei suoi figli. Quindi è il mondo in quanto si oppone a Dio, è lo spirito del mondo, è lo spirito del mondo che si oppone a quello che noi potremmo chiamare il regno dei cieli, mondo contro cielo. Quindi queste due realtà stanno in lotta, e è una lotta irreversibile, perché il mondo al cielo lo odia, gli fa la guerra. Il cielo non odia il mondo, lo ama e vorrebbe convertirlo, ma al contrario c'è assoluta rifiuto e inimicizia. Perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive, dice Gesù, no? Quindi questo è un primo punto importante da riflettere. Gesù scende, ecco, cominciano le discussioni. È buono, inganna la gente. Vedete come nel Maestro, voi avete studiato un pochino le storie dei santi, no? Abbiamo fatto l'esempio di Padre Pio. A Padre Pio fu proprio detto che lui era un ingannatore studiato, quindi che si era fatto apposta le stigmate per attirare folle e per ingannare. E questo non è stata la cosa peggiore che gli hanno detto, ma vedete come San Giovanni, questo tema così, come dire, dettagliato prima della passione non c'è negli altri evangelisti, eh? Espressione inganna la gente non lo troviamo. I giudei, come mai costui conosce le scritture senza avere studiato? Voi dovete sapere che ai tempi di anzitutto ci sono alcune, non è detto che Gesù, ci sono alcune tradizioni che attestano, si è andato a scuola, non è affatto detto. Ci sono alcune tradizioni, diciamo, chiamiamole apocrife, non confermate, che attestano che Gesù è stato educato direttamente da Maria Santissima per essere preservato dall'ambiente, come dire, potenzialmente corruttivo della scuola. Queste sono pie ipotesi, non è detto che sia così. In ogni caso è certo che Gesù non abbia frequentato alcuna scuola rabbinica. Per diventare un rabbino, perché l'ho detto altre volte, tu dovevi necessariamente metterti alla sequela di un grande rabbino. Ai tempi di Gesù c'erano due grandi rabbini che erano Shammai e Hillel, uno sulla sponda opposta dell'altro, ma erano due autorità. Tu dovevi stare alla loro scuola come Saulo, San Paolo l'aveva fatto. Saulo era discepolo di Gamaliele, grande rabbino, poi secondo la tradizione anche lui convertito, ma all'inizio era ancora, fu quello che consigliò prudenza a quei fanatici del Sinedrio che volevano fare la fine del mondo. E Saulo non era tanto prudente quanto il suo maestro, perché Saulo andava a fare le scorribande in giro. Tu non potevi accreditarti come rabbini, dicevano: tu di chi sei discepolo? Di Gamaliele, ah va bene, puoi predicare. Tu di chi sei discepolo? Di Hillele, ah va bene, puoi predicare. Gesù si presenta: di chi sei discepolo? La mia dottrina non è mia, ma di quello che mi ha mandato. Di chi sei discepolo? Del Padre Eterno. C'è qualche problema? Voi capite anche un po' la provocazione, insomma, di Gesù, no? C'è quest'altro aspetto del Vangelo di San Giovanni, e che la storia della Chiesa dimostra attraverso alcuni santi. Quindi intanto Dio fa le cose un po' fuori dei binari, lo fa apposta. La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Come si riconoscerà? Dice, tu come ti autentichi? Come facciamo a darti retta? Che credenziali dai? Lui ha alle spalle i segni. Dice, ma c'è un'altra cosa. Chi vuol fare la sua volontà riconoscerà se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso. Questa è una cosa interessantissima. Vuoi capire da dove viene la mia parola? Bene, dipende da quello che tu della tua vita vuoi fare. Vuoi fare la volontà di Dio? Comincia a farla e vedrai se quello che io dico viene da Dio o se viene dagli uomini o se viene dal diavolo. Questo grande criterio di discernimento. Altra grande cosa, chi parla da se stesso cerca la propria gloria. E qui, stamattina il caro Don Fabio Rosini, che ho già citato durante l'omelia, ci ha offerto un pochino di spunti di meditazione a noi sacerdoti. Quando predichi, perché questa è rivolta a noi, tu chi cerchi? Stai nutrendo i fedeli? Stai cercando la gloria di Dio? O l'ambone diventa un palcoscenico dove ti esibisci? Questa è un po', non l'ha detta così Don Fabio, questo parafraso io, è un po' più dura, capito? Personalità narcisistica dove tu attiri l'attenzione, dove fare il discorso di colpo, dove fare, si chiama il piacione, d'accordo? Quindi l'accaparramento, grande tentazione dei predicatori, perché a volte succede che se uno predica un po' cercando di rimanere fedele, troppi consensi immediati non ce l'ha, ce li ha nel lungo periodo, non nel breve periodo. Cioè, se tu vedi un qualcuno che va in un posto e con una settimana ha riempito la chiesa, c'è un sospetto, un piccolo sospetto. Se qualcuno dopo 10 anni riempie la chiesa, il santo curato d'Ars, non solo ha riempito la chiesa sua, ma ha convertito a mezza Francia. Voi dovete sapere che i primi 4 anni, leggete le biografie, faceva la messa quasi esclusivamente ai banchi, che tra l'altro manco c'erano a quei tempi. Non c'era nessuno. Per 4 anni, no? Cioè, io te dico, io sono 4 anni che sto a sermoneta, io sono molto più fecondo del quello d'Ars, capito? Lui, zero assoluto, capito? E passava le giornate intere in chiesa, in ginocchio, a fare breviare in ginocchio, non ci aveva beato lui, era un po' più giovane di me, di tutti gli altri di acciacchi che ci poteva più niente, capito? A pregare, perché non c'era, non se lo fidava nessuno. Tu non puoi dire, ma quello ci andavano poi i fiumi, te stava 15 ore al giorno in confessionale. Sì, ma dopo quanto tempo? Perché non è che stanno litigati, cioè, capito? Perché inevitabilmente il contatto con qualcuno, cioè, non ha una risposta immediata. Cioè, le cose che vengono dal diavolo, è così generalmente anche nel mondo, il successo immediato è una cosa, pum, capito? Il diavolo, la stella di Hollywood esce fuori, pum, subito i riflettori, subito i soldi apparati, e succede, e dopodiché, le cose di Dio sono al contrario, all'inizio, cioè, l'avete vista la fiction anche su Don Puglisi, caruccissima, Don Puglisi, se vedete la fiction, vedete che arriva a quel posto, dove stava, a Brancaccio, e comincia a celebrare la messa all'aperto, quindi, una persona seduta al banco, tra l'altro una persona non capiva niente di quello che lui diceva, zero, e lui predicava a quella persona come se si sta facendo una predica a 200 persone, ma c'era una persona seduta al banco, una, capite? Non pulisci. Ecco, quindi va bene, no? Quindi cercare la gloria di colui che ha chiamato e quindi parlare sempre nella verità, certo. Abbiamo visto sempre la messa di questa sera, no? Con lo stile di Gesù, con la dolcezza, con la gradualità, con l'amore. Però, capite? La dici col violino o la dici col lamento, alla fine ti dici sempre la verità. E la verità inevitabilmente qualche difficoltà l'incontri, d'accordo? Per forza. A volte anche reazioni, come in questi casi, un po' forti, no? Ecco, va bene. Prosegue Gesù. E qui comincia già un pochettino. Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. Perché cercate di uccidermi. Allora, quinto comandamento, dice, non uccidere. Rispose la folla. La folla dice, sei indemoniato. Chi cerca di ucciderti? Quindi, vedete che bei complimenti che danno a Gesù, eh? Sei indemoniato. Altrove gli hanno detto che cacciare i demoni. Se tu cacci i demoni nel nome del principe dei demoni. Cioè, noi dobbiamo pensarci un po', vedete che San Giovanni descrive questi caratteri. Sei indemoniato. Se è successo che hanno scambiato Gesù per un indemoniato, non potrà succedere che nel corso della storia qualche uomo di Dio non sia scambiato per indemoniato? Dice Gesù, se hanno chiamato Satana il padrone di casa, quanto più i suoi familiari si hanno perseguitato come perseguitato. Cioè, quello che a Gesù è successo si ripercuote poi in tutti quelli che di Gesù sono. Come sapete, tanta gente possiamo... Altra parentesi attuale, no? La situazione molto difficile che si sta vivendo adesso a livello anche di chiesa proprio, cioè, capite? Cioè, la situazione delle chiese, non voglio dire, no? Cioè, noi dobbiamo pensare a quello che è successo quest'anno. Dobbiamo pensare, non voglio appena, cioè, niente messa di Pasqua e niente messa di mezzanotte. In Italia sicuramente, non so, trovo. Alle 9:30 dentro il Papa. Alle 7:30. Non abbiamo, cioè, adesso non guardiamo ai rimedi. Il rimedio, cioè, non è la, cioè, niente è la fine del mondo. Però questi sono eventi significativi. Noi non possiamo semplicemente dire, i governanti sono cattivi, e la conferenza episcopale, è sicuro adegua. Sì, se pure di, cioè, tanto comunque, cioè, la libertà di espressione, di pensiero, purché sia rispettosa, ma noi dobbiamo capire che ci sta dicendo il Signore attraverso questi fatti. E io dico, lo dico con dolore, per esempio, a Pasqua, ma a quanti gliene è calato più di qualcosa che non c'era la messa di Pasqua? Gliene è calato che se poteva uscire a Pasquetta per fare la Pasquetta. Andiamoci la verità, insomma, perché era ancora lockdown. Cioè, ma voglio proprio vedere, tutti si sono disperati perché non c'era la messa di Pasqua. Quando io sono certo che più di qualche cattolico, non voi siete bravi, non ha mai partecipato ad una funzione della Settimana Santa. Io non ho vergogna, fino a quando c'ho avuto una certa età non sapevo neanche che esisteva il Venerdì Santo, la celebrazione della Passione, la messa in cena Domini, perché io ho una famiglia brava, cattolica, messa da sempre insegnato, insomma, ma che ha capito, cioè, perché è un contesto che non allora non è che il nostro Signore sta dicendo bene, tanto non importa niente a nessuno, e quindi prima che mi snobbano loro, chiude i rubinetti io. Potrebbe essere, io dico sempre, cioè, tutti quanti, anche Cardinal Sarafa, delle bellissime lezioni, sto leggendo un libro stupendo sul silenzio. Nel silenzio dobbiamo interrogarci, capito? Però attenzione, la situazione difficile, lo spopolamento, cioè lo svuotamento delle chiese, il nostro Signore lasciamo tutti quanti, a un certo punto vi ricordate, volete andarvene anche, cioè, quello che Gesù ha vissuto, la Chiesa lo vive. La Chiesa deve passare per il venerdì del Giovedì Santo, deve essere crocifissa, deve essere umiliata, deve conoscere forse anche la morte. Per partecipare, capito? Quindi, cioè, noi non possiamo rimanere, Kant diceva, ci sono, scusate se dico, due livelli del mondo, il fenomeno, così si chiama tecnicamente, sempre dal greco, il noumeno, il fenomeno da faino, ma il greco, quello che appare è l'accadimento. Io ho scritto un'omelia per il settimanale di Padre Pio per Natale, quello che accade, lo sappiamo tutti quanti, quello che accade oggi, il mondo di oggi, sulle notizie, sugli accadimenti, c'è la testa tanta, molte sono fake, quindi quello che accade lo sanno tutti, ma quello che succede, cosa c'è dietro quello che è accaduto? Il noumeno, cioè, che significa quello che è accaduto? Che stiamo vivendo? Che ci sta dicendo il nostro Signore? Questo noi dobbiamo saperlo, o quantomeno dobbiamo chiedercelo, o quantomeno dobbiamo pregarci. Perché la storia della Chiesa, che è il mistico corpo di Cristo, riproprio produce la storia del suo Maestro e del suo Signore, paro paro, passo passo. Cioè, qui tanti santi sicuramente saranno specchiati in queste cose, testuali, d'accordo? Un demoniato. Un'opera solo ho compiuto, dice Gesù, e tutti ne siete meravigliati. Il famoso, o comincia qui la polemica sul sabato. Dice, Mosè mi ha dato la circoncisione, non che essa venga da Mosè, ma dai patriarchi. La circoncisione fu data da Dio, come sapete, ad Abramo. È il sigillo. La circoncisione è per gli ebrei segno dell'appartenenza a Dio, quello che il battesimo è per noi, ok? Un po' più cruenta, un po' più meglio il battesimo, meglio. Non solo perché il battesimo c'è la grazia sacramentale e la circoncisione, ma anche insomma perché i sacramenti della nuova alleanza sono tutti più belli che dell'Antico Testamento, qua tra circoncisioni, agnellini, mamma mia, quindi meglio il sacrificio incruento dell'altare, il battesimo con l'acqua dello Spirito Santo, eccetera eccetera, no? Dice, ora se un uomo riceve la circoncisione di sabato, dice, voi vi sdegnate perché non siete trasgrediti la legge di Mosè, voi vi sdegnate perché di sabato ho guarito interamente un uomo. Questa è tutta canta la polemica, questa la troviamo anche nei sinottici e ampiamente attestata, specialmente nel Vangelo che studiamo quest'anno, che celebriamo quest'anno per il Vangelo di Marco, l'anno B. Non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con giusto giudizio. Attenzione, anche qui una piccola nota da parroco. Vi ricordate quando Gesù dice non giudicate e non sarete giudicati? Guardate. Non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con giusto giudizio. Allora, giudichiamo o non giudichiamo? Che facciamo? Allora, buoni tutti. Andiamo al versetto incriminato e cominciamo a vedere. Allora, il verbo greco è crino. Crino è proprio il... E attenzione, ma giudicate con giusto giudizio, anche la traduzione nuova, no? In greco è alla ten di kaian krisin krinete. Letteralmente è ma giudicate il giudizio giusto, non giudicate con giusto giudizio. Allora, cos'è che non si può e non si deve mai giudicare? L'intenzione delle persone, questo si dice, che è quello che stanno facendo con Gesù. Trasgredisce il sabato, quindi lui fa questa cosa perché è un trasgressore della legge. Gesù dove li sta portando? Non sul fatto, dice. Cos'è guarire un uomo? È fare una cosa buona, giusto? Cos'è circoncidere un uomo? È fare una cosa buona. Si può circoncidere una persona di sabato? Sì. Allora si può fare una cosa buona di sabato? Lo sposta dall'intenzione all'azione. Perché noi l'azione in sé la possiamo e la dobbiamo giudicare, perché l'azione è una cosa oggettiva, che è buona o cattiva, l'intenzione mai. Questo vale sempre. Quindi quando noi vediamo quello che non possiamo e non dobbiamo fare perché è peccato, sempre è perché noi non possiamo sapere se la persona che fa un'azione è consapevole di quell'azione negativa, se c'ha delle circostanze attenuanti, se non l'ha fatto apposta, se addirittura magari crede di fare bene facendo male, se non ha maturato una coscienza. Quindi quello che noi non possiamo fare è giudicare la sua intenzione, né tantomeno andarla poi a spubblicare in giro. Ma la situazione si può e si deve giudicare, perché io devo sapere se una cosa in sé è cattiva o non è cattiva. Rubare è male, ma voi sapete che se una persona ruba perché sta morendo di fame, ruba una mela, sta morendo di fame, e Dio sa che quella persona ha provato a lavorare, ha cercato di lavorare, ha chiesto l'elemosina, non è riuscito a lavorare, non c'ha una lira e nessuno gli ha dato manco un centesimo di elemosina, sta morendo di fame, Prendere una mela in quelle circostanze non è un furto. Non vi scandalizzate, perché c'è il principio, il Papa anche attuale ne ha parlato fin troppo, tante volte, della destinazione universale dei beni. Se sto morendo di fame e io ci ho provato a lavorare, ma non ho lavorato, ho chiesto l'elemosina e tutti mi hanno sbattuto la porta in faccia, prima che muoio di fame, posso prendere una mela da un albero anche senza chiedere il permesso al padrone. Solo a quelle condizioni, capito? Però quello ruba, non lo sta rubando quello lì, anche se sta compiendo un'azione che in sé non si deve fare ordinariamente. Allora Gesù continua a dire le discussioni sull'origine del Cristo. Intanto alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo, dice, ma costui sappiamo di dov'è? Di Nazareth. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Capite che quello che stanno dicendo è in realtà quello che è, perché di Gesù nessuno sapeva di dove era, perché tutti pensavano che era di Nazareth, ma lui di Nazareth non era, perché era di Betlemme, non di Nazareth. E le profezie dicevano che il Messia doveva nascere a Betlemme. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: certo voi mi conoscete e sapete di dove sono. Qui dovremmo fare un'altra lezione di greco, però lasciamo perdere, dai, che stava a far arti. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Non posso però troppo resistere, qualche cosa dobbiamo un attimo vederla insieme. Allora. Vedete qui il verbo è oida, non è gnosco. Allora, in greco ci sono due modi per dire conoscere. Uno è gnosco e l'altro è eidon. Gnosco è una conoscenza, come dire, formale. D'accordo? Invece oido è la conoscenza attenta. Allora, dice Gesù: voi mi conoscete e sapete da dove vengo, attenzione, ma io non ho parlato da me stesso, ma colui che mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Gesù gioca su questo fatto dicendo: voi pensate di conoscermi veramente, ma non mi conoscete. E non conoscendo veramente me, non potete conoscere veramente colui che mi ha mandato, perché non è oggetto della vostra conoscenza profonda. E ha già spiegato prima che l'oggetto della conoscenza profonda di lui è fare la sua volontà. Ma se tu ti metti a giudicare, a chiacchierare e a voler uccidere, già stai fuori della sua volontà, quindi non puoi accedere a questo tipo di conoscenza profonda. Io però lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato. Attenzione, adesso qui un altro termine molto importante. Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui. Attenzione, perché non era ancora giunta la sua ora. Questo è un leitmotiv, non è la prima volta che lo troviamo, nel Vangelo di San Giovanni. Questa è anche una grande consolazione per tutti noi. Nel Vangelo di San Giovanni si capisce come la vita di Gesù è stata governata dalla divina volontà. L'avrebbero voluto fare fuori da moltissimo tempo. Nel Vangelo di Marco, addirittura nella prima uscita pubblica di Gesù, già i farisei e gli erodiani vogliono farlo fuori. A manco fa tempo a mi bocca, già lo vogliono ammazzare. Ma non era giunta la sua ora. E attenzione, anche quando giunge l'ora, lo vedremo poi, in anticipo l'abbiamo già visto, San Giovanni è l'unico evangelista che, quando vanno ad arrestare Gesù nel Getsemani, nota un particolare che nessun altro evangelista nota. Chi cercate? Gesù il Nazareno. Gesù risponde: sono io, attenzione, non semplicemente sono io sono colui che sono. Quindi fa una manifestazione verbale della sua forza divina, cadono tutti per terra. Si rialzano. Chi cercate? Vi ho detto che sono io. La seconda volta non dice più io sono, attesta la sua identità. Non cade più nessuno e si lascia prendere. Cosa sta dicendo? Quello che dice la preghiera eucaristica 2. Prima era offrendosi liberamente alla sua passione, adesso consegnandosi volontariamente alla sua stessa cosa. Cioè, è giunta la mia ora, quindi stare attenti. Se io volessi, vi sbatto tutti quanti fuori, voi non mi state catturando, io mi sto facendo catturare. Perché questa è l'ora in cui il Padre lo concede. E io che sono suo figlio, pur avendo i suoi stessi poteri, potendovi stendere tutti quanti, non lo faccio, non perché non posso, ma perché non voglio. Perché questa è l'ora. Prima no. Nel Vangelo di Luca, l'unico che nota questo particolare, a Nazareth, quando va a Nazareth, volevano buttarlo di sotto, ma egli misteriosamente passa attraverso la folla e svicola. Non lo buttano di sotto. Nonostante tutte le insidie che gli avessero teso. Quindi, rifacciamo il discorso di prima, no? Cioè, la storia è misteriosamente retta da Dio, comanda Lui. Quindi anche quando ci sono frangenti e circostanze drammatiche, adesso comanda il diavolo adesso in giro, abbastanza, ma è un comando subordinato, non è un comando assoluto. State attenti che una grande eresia del passato, che oggi è molto presente anche in molti credenti, che cadono nella disperazione, dice che c'entra? C'entra e come? Era il manicheismo. Combattuta da Sant'Agostino. Sapete cosa dice il manicheismo? Dice che esistono, è espresso in un segno che non dovete mai portare al collo, che è una medaglietta che ha metà bianco e metà nero. Cioè i principi del mondo sono due, il bianco e il nero, il bene e il male, Dio e il diavolo. Questi sono due principi sullo stesso livello. Il Dio bene e il Dio male. No, Dio è uno solo, cioè il Dio bene. Il male non sta a quel livello, sta a un livello subordinato, perché il diavolo è una creatura, capite? Cioè, il diavolo col Dio non può competere, non può, sta sotto. Voi sapete che questo lo vediamo anche, il nero secondo voi è un colore? Ecco perché è il colore del diavolo. Sapete dalla fisica, no? Il bianco c'ha 7 colori messi insieme che formano il bianco. Il nero non ha nessun colore. È un non colore. Capito? Quindi non era ancora giunta la sua ora. Molti della folla credettero in lui e dicevano: il Cristo quando verrà compirà forse segni più grandi di quelli che ha fatto costui? Vedete? Le parole sapienti di Gesù che scuotono, no? I farisei udirono che la gente andava dicendo sottovoce queste cose di lui, sottovoce. Perciò i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. E Gesù disse: ancora per poco tempo sono con voi, poi vado da colui che mi ha mandato, ricordate l'introduzione, voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io non potete venire. Dissero dunque tra loro i giudei: dove sta per andare costui che non potremo trovarlo? Non commento perché l'ho già commentato. Non andrà forse da quelli che sono dispersi per i greci, insegnerai ai greci? Che discorso è quello che ha fatto? Voi mi cercherete e non mi troverete, dove sono io non potete venire? Infine, nell'ultimo giorno, nel grande giorno della festa, bellissima immagine, Gesù detto in piedi grida: se qualcuno ha sete venga a me, beva chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Attenzione, nota Giovanni, questo gli disse dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non c'era ancora lo spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato. Quindi la grazia di Dio, vede, la giustificazione prima della morte e della risurrezione di Gesù, la grazia tra gli uomini non c'era, salvo la Madonna, d'accordo? E salvo le eccezioni molto circoscritte, in paradiso non era entrato nessuno, prima della morte di Gesù, nessuno. Nessuno, c'erano gli angeli fedeli, ma tra gli esseri umani non c'era nessuno, senza nessun dubbio. Ok? udite queste parole, alcuni tra la gente, vedete, dicevano: costui è davvero il profeta, altri dicevano: costui è davvero il Cristo, altri invece dicevano: vedete, il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la scrittura: dalla stirpe di Davide, da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo? Voi mi conoscete, ma non mi conoscete, ha detto Gesù prima. E tra la gente nacque un dissenso su di lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Perché nessuno mise le mani su di lui? Ce l'ha spiegato prima. San Giovanni queste cose, quando scrive questo Vangelo, l'ha già vissute. San Giovanni, ve l'ho detto altre volte, è stato martirizzato, tentativo di martirizzazione, due volte. Una volta è stato messo nella padella con l'olio bollente, nella sua parte antica, è uscito illeso. E un'altra volta gli hanno dato da bere un calice di vino avvelenato e non gli ha fatto nessun effetto. Nella mia chiesetta di San Michele Arcangelo, misi tra i quadri dell'altare, c'erano i tre quadri che rappresentano, due quadri che rappresentano la Cristia, centro del tabernacolo, la presenza reale. Da un lato l'agnello immolato, quindi la messa a sacrificio, e dall'altro San Giovanni che dava la Madonna a comunione, un quadro che vide in Francia. Bellissima, la Madonna che prende la comunione devota in ginocchio dalla mano di San Giovanni. E dietro San Giovanni c'è un serpente con un calice. È rappresentato così, perché ricorda quell'episodio. Allora San Giovanni lo sa, cioè, oh, Gesù ha detto a San Pietro: se voglio che gli rimanga, cioè, San Giovanni non è morto martire, è morto di vecchiaia. È l'unico tra tutti i 12 apostoli. Dice: ma come mai tutti gli apostoli martirizzati? San Giovanni no, non è morto martire. Perché? Perché Dio non aveva previsto per lui il martirio, e non è morto martire. Ha già provato due volte a ammazzarlo, ma non è morto martire. Quindi capite anche la nostra serena sicurezza in tutte le cose quando c'è la fede. Non è morto martire, lui lo sa. Quindi a Gesù non l'hanno arrestato fino a quando non è giunto il momento, capito? Ecco. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dei farisei, e questi dissero loro: perché non l'avete condotto qui? Risposero le guardie addirittura: mai un uomo ha parlato così. Ma i farisei replicarono: vi siete lasciati ingannare anche voi? O forse ha forse qualcuno creduto in lui, qualcuno dei capi dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta. Allora Nicodemo, ricompare Nicodemo, dal capitolo terzo l'abbiamo visto, riappare, che fa capire che Nicodemo era un pezzo grosso dell'elite religiosa, membro del Sinedrio. Era uno di loro, specifica San Giovanni. La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Interventino. E gli risposero, vedete, lo sprezzano: sei forse anche tu dalla Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. Qui è una steccatina anche su certi teologi sapientoni e dottoroni intelligentoni che studiano, ma a volte, avendo la testa oscurata, c'è un'informazione vera che questi non sapevano e Gesù non gliela data. È vero che non sorge nessun profeta dalla Galilea, ma lui non è galileo, lui è giudeo, lui era da Betlemme. Ecco, questo è un po' un capitolo che, capite, è molto bello secondo me. Uno magari se lo legge da solo può anche sembrare un pochino noioso con tutti questi particolari, però vedete che insomma, che se uno gli dà una lettura focalizzata e attenta, come sempre ci si tirano fuori tante belle cose, credo, edificanti. Fuori tempo massimo, assolutamente. Sei del 2002? Sai che puoi spendere il tuo bonus cultura per abbonarti all'edizione digitale del Corriere della Sera? Registrati a 18app, usa il tuo buono e resta informato per un anno con il Corriere. Hai tempo fino al 28 febbraio 2022. Vai su corriere.it/abbonamenti. Mi stavo chiedendo, quanto era veloce quel servizio? 98 km all'ora. Che colpo, quanto è andato lontano? 229 metri. Quanto hai dormito? 7 ore e 54. Ultima domanda, stai allenando corpo e mente con l'app Mindfulness? Esattamente. Tutti abbiamo delle domande e il nuovo Apple Watch Series 7 ha le risposte sul display più grande ed evoluto di sempre. Il futuro del benessere è qui, al tuo polso. Soggetto a disponibilità, richiede iPhone 6S successivo. App disponibile sull'App Store, iscrizione richiesta.